Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'un mattino. Ragazzi, mamma mia che svago, quanto per Chicago scende a passeggiare. Ragazzi, presto sorridete, se lo disturbate, certo sparerà. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate, state attenti o le buscate, sono il dritto di Chicago Sugar Bean, sono il dritto, sì, di Chicago Sugar Bean.